Cellando. Viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea. Presentata da Radio Alma e condotta in studio da Mary D. Con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent. Regia di Danny M. Cari amiche, cari amici, Radio Alma, Bruxellando, Mary D e microfoni questa sera. Come spesso è accaduto quest'anno in questa nuova versione di Bruxellando, ci siamo ritrovati ad avere la possibilità, e di questo ringrazio ovviamente il nostro direttore, di poter dedicare uno spazio in più a quelli che sono i nostri numerosi ospiti. Mi faceva piacere quindi questa sera riospitare in diretta per una Bruxellando special Margherita Villa. Se vi ricordate, Margherita era già stata nostra ospite all'incirca un anno, forse già un anno e mezzo fa, durante la prima edizione di Bruxellando. Questa sera Margherita è nuovamente qui con noi perché intanto tanti altri progetti sono stati realizzati, qualcosa ancora bolle in pentola e quindi sarà di prossima pubblicazione, quindi un altro libro sta per essere messo a punto per venire pubblicato, e quindi ci faceva piacere di invitare Margherita e ascoltare quelle che sono le novità e quelli che sono i progetti. Qualche breve informazione, ma sarà Margherita, sapete che a noi di Bruxellando piace soprattutto lasciar parlare i nostri ospiti, lasciarli raccontare e raccontarsi. Brevemente, Margherita è nata a Torino, ha completato gli studi a Venezia e ha svolto fin da giovanissima mestieri più vari e vissuto in posti differenti, tanto in Italia quanto all'estero. Infatti è stata architetto e ha lavorato per ben più di 3 anni in Africa. E magari poi Margherita ci racconterà questa sua appassionante avventura nei diversi paesi africani che ha voluto visitare. La volta scorsa, se ricordate, avevamo parlato di uso, riuso e progetto, quindi si tratta di questa pubblicazione in cui si parla di oggetti che però vengono utilizzati diversamente, quindi si possono nucleare delle differenze tra i paesi sviluppati, quelli detti sviluppati, per utilizzare un gergo a noi abbastanza noto, e i paesi in via di sviluppo. Pensate che può essere anche considerato come un lavoro pioneristico perché è stato pubblicato nel 2000. È un confronto di due modi di vita opposti, l'uno è il nostro, diciamo quello dei paesi occidentali, basato sull'abbondanza, sulle regole, l'altro quello dei paesi poveri, improntato sulla limitazione obbligata nell'uso delle risorse e dei beni. Quindi ci eravamo già interrogati su questa sua prima fatica, e questa sera invece vorremmo invece intrattenerci su Volare senza ali, che invece è stato pubblicato recentemente nel 2006, già presentato in Italia, in Belgio ed in Olanda, e invece siamo molto orgogliosi del fatto che qualcosa come sta per essere messo a punto e quindi sarà prossimamente pubblicato. Margherita, buonasera. Buonasera. Benvenuta. Grazie di avermi accolta qua. Assolutamente, siamo noi che ringraziamo te, siamo veramente felici soprattutto di questa tua partecipazione in radio. Ricordiamo che Margherita vive al momento a Maastricht in Olanda, quindi per me è davvero un piacere, nonché un onore, averla personalmente in radio. Abbiamo preferito questa versione, diciamo, un attimo più conviviale, superato quelle che sono le difficoltà tecniche che ultimamente abbiamo riscontrato col telefono. Margherita, rispetto a quello che già ci siamo detti e rispetto a questa mia brevissima presentazione, prima di passare nel dettaglio a Volare senza ali, c'è qualche elemento in più di cui vorresti parlarci rispetto a questo tuo cammino di architetto e dei paesi soprattutto un po' più difficili come Djibouti? Sì, la mia esperienza africana è stata fatta in due paesi, uno Djibouti e un altro altrettanto difficile che è la Mauritania. Sono due paesi desertici, di cultura araba molto, molto forte, quindi fare delle indagini fuori in strada o anche delle foto, ecco, già questo risulta un compito molto difficile, soprattutto se una donna farle. Quindi durante il mio lavoro, che era di diverso tipo, anche di indagine sul campo, mi scontravo anche quotidianamente con queste cose. Non solo, un altro piccolo appunto, siccome dipingo, ogni tanto ho fatto dei quadri open air, e naturalmente questi hanno riscontrato ancora maggiori difficoltà, perché se fare la foto si fa in un click, fare un disegno, c'è tutta una serie di persone curiose che cominciano a dire cose che naturalmente per me erano incomprensibili, e quindi Naturalmente queste culture ci si accosta sempre con un po' di rispetto, cercare di non interferire, vestirsi in modo appropriato, eccetera, che insomma poi alla fine ci si abitua. Quello che invece a cui non ci si abitua, e non mi sono in effetti abituata, è stata la estrema povertà, il fatto di vedere degli esseri umani che hanno i nostri stessi diritti e che invece vivono in condizioni allucinanti, in cui si tocca con mano quanto poco sia il valore della vita per un bambino che va in giro da solo 2 anni, che può essere schiacciato, portato via, qualsiasi cosa. E queste sono, diciamo, le cose che mi hanno per un qualche verso anche fatto fuggire dall'Africa, perché si sta male, ecco, non è che sia un posto dove si va per turismo, cioè io non ho fatto per turismo, ho fatto perché era il mio mestiere. Nel momento che ho studiato architettura adatta al clima, è un posto in cui la scelta bioclimatica è un modo per risparmiare risorse, necessariamente, non un vezzo, è un modo per spendere meno, una possibilità in più per costruirsi una casa in cui si sta bene e con pochi soldi, quindi questo era un po' il mio lavoro là, che aspetto di ritornare a fare, diciamo, in questo periodo lungo ho fatto in mezzo, in cui mi sono poi assentato, ho fatto altre cose senza dimenticare che appunto, come dicevo prima Marilena, l'idea è di ritornare a lavorare in Africa, perché c'è un po' di mal d'Africa anche. Alla fine tutto sommato in realtà è che si vivono quelle che sono le contraddizioni di decisioni che sicuramente non sono prese, ma poi in quale paese queste decisioni sono prese in maniera, voglio dire, dal basso, e probabilmente in alcuni paesi più che in altri purtroppo talune decisioni, talune scelte hanno poi risvolti effettivamente diversi. E quindi in questo tuo libro Un'estate senza tregua credo che tu racconti proprio questa tua esperienza a Djibouti. Ecco, Un'estate senza tregua è un libro che non ho ancora pubblicato, ma è lì pronto, perché c'è sempre il problema in Italia delle case editrici che sono insomma è una categoria a parte, quindi bisogna entrare a fare dei grandi compromessi, e quindi il libro è pronto. In effetti è una specie di fiction, però è ambientato a Djibouti con tutte le sue contraddizioni e tutto quanto. E sì, spero un giorno di poterlo magari pubblicare. Chi l'ha letto ha detto che insomma era bello, quindi... Ma noi te lo auguriamo, e magari proprio da questi microfoni, chissà, qualcuno è all'ascolto, può essere interessato e, come si dice, mai mettere insomma le redini al caso, insomma, di tanto in tanto magari dal caso nascono le cose migliori. Invece torniamo a Volare senza ali, mi incuriosisce molto il titolo, insomma, Volare senza ali, perché? Sì, questo è un titolo un po' particolare, perché questa cosa del volare, il nostro protagonista, questo è una biografia romanzata, e quindi parlo di un ragazzo, di un atleta, che ha provato un po' tutte le discipline ed era anche atleta nella nazionale, e per lui volare era effettivamente un modo per incitarsi, ma anche il passo successivo alla corsa, era quello che, a cui tendeva. E tra le sue frasi che scriveva nei suoi diari da ragazzino, perché un sogno così di diventare atleta lo si deve unicamente coltivare da molto giovane, e lui appunto nel suo diario scriveva volerai senza ali e vincerai senza spada. Questo era una specie di incitamento. Naturalmente questo titolo ha una portata verso l'alto, che sembra un po' eroico, senza contare che è una frase che aveva anche detto il Boccaccio, che tra l'altro abbiamo scoperto che lui si riferiva alla passione amorosa, volare senza ali, ma comunque questo è venuto poi fuori dopo. Io ho preso semplicemente il titolo, diciamo, una di queste frasi di questo ragazzo, senza, e inoltre lui appunto proprio per enfatizzare questo, una via che ha aperto proprio il suo paese, che è Paluzza, lo stesso paese da cui proviene Giorgio Vicenta ed erano amici, ha scalato un monte che è proprio lì vicino e l'ha chiamato via volo con l'aquila. Ecco che ritorna di nuovo il volo. Il volo è una specie di trasfigurazione di questo atleta che ha provato ad andare oltre. Il volo è anche espressione di libertà. Naturalmente non è disgiunto, chi fa delle scelte di questo genere non è disgiunto da una scelta di libertà individuale. Infatti Erwin, che è questo ragazzo di cui parlo, Erwin Mayer, era dei carabinieri, perché voi sapete che naturalmente i carabinieri hanno la possibilità di avere il loro gruppo sportivo molto ben strutturato, però era un carabiniere diciamo un po' fuori dalle righe, perché lui aveva, intanto si teneva i capelli lunghi, andava in giro senza calzini, si dimenticava le scarpe e quindi aveva tutta una serie, era una specie di macchietta questo ragazzo, che tra il resto è ancora il suo passaggio è stato così intenso e anche breve che ogni anno a Paluzza gli dedicano una giornata di sport, di corsa in montagna, che se voi non avete mai assistito a qualcosa di questo genere è una cosa da brividi, perché in meno di un'ora fanno 1200 metri di dislivello. E quindi è una categoria di atleti molto selezionati, perché uno che corre in piano non può fare corsa in montagna. Corsa in montagna ci vogliono delle cosce poderose ed è straordinario. E questa gente che è in montagna ha scoperto, questa è una cosa che io ho scoperto anche, che si dedicano moltissimo allo sport con una passione straordinaria, e Paluzza è uno di questi paesi. E giusto per farvi un esempio, ci sono due famiglie che hanno generato una cosa come 5 atleti a Paluzza, cioè, ci sono i due di Centa, c'era un terzo di Centa che si è fermato per problemi di un infortunio, e prima c'era il Venanzio Ortis, che era a mezzo fondo negli europei negli anni 80, fine 80-90, se non mi sbaglio. E ci sono comunque le squadre, generazioni di nuovi ragazzi che sostituiscono via via gli altri. C'è magari un passaggio di questo Volare senza ali di cui vorresti leggerci? Ce ne sono tanti, io vi consiglio di leggerlo, perché noi ovviamente vogliamo ricordarlo, magari ricordiamo la casa editrice. Allora, la casa editrice è la CDA e Vivalda, che è una casa editrice di Torino che fa prevalentemente libri di montagna, anche se questo è della collana poi fuori linea, cioè, anche perché come ho detto prima il genere è biografia romanzata. Ecco, volevo fare un appunto riguardo questo libro, sì, perché è un libro particolare, non è proprio un libro di montagna, perché e non è propriamente una biografia. Io l'ho scritto senza aver praticamente conosciuto il protagonista, cioè l'ho incrociato e gli ho parlato per 10 minuti, e prima che morisse ho capito dopo, anni dopo, che era lui. Ero lontana fisicamente dal luogo dove si svolgono le vicende, che sono sulle montagne Carniche, Bologna, diciamo in Italia, e non pratico gli sport invernali, e quindi ho dovuto, nell'alpinismo, nell'atletica, che il nostro protagonista ha fatto, e quindi ho dovuto informarmi, eccetera. Ma la cosa più strana è stata che ho dovuto intervistare molti testimoni, e molta gente non collaborava, perché la gente in montagna, prima di cominciare a parlare con un estraneo, insomma, sono andata, ho frequentato questo paese per 3-4 anni, ad un certo punto ho mollato il block notes e andavo giusto a vederli. Quindi è venuto fuori una specie di, veramente un romanzo che ha dentro anche tutte le vicende di Erwin, però ha una sua struttura completamente a parte, quindi non è il romanzo puro di montagna, è un romanzo che parla anche di un ragazzo che ha fatto anche l'alpinista, ma non solo, molte altre cose. Quindi ci sono più temi che si ritrovano, quindi non c'è soltanto magari l'affermazione personale rispetto ad un sogno, c'è qualcos'altro? Sì, ci sono, ovviamente quando un ragazzino ha 15 anni è il sogno con tutta la sua capacità carismatica di trascinarlo, di fargli superare gli ostacoli, di correre, perché la corsa è una cosa difficoltosa, chiaramente, che richiede un tot di ore di allenamento duro al giorno, ma andando avanti a 20 anni questo diventa qualcos'altro. E ai 25, ai 28 diventa qualcos'altro. Ecco, vediamo via via che il personaggio matura, decadono i toni eroici, quando in quanto invece viene a sostituirsi un ideale di altruismo, di solidarietà, che lo continua ad accompagnare. Infatti questo ragazzo ha ottenuto una medaglia d'argento a valore militare per un'azione di salvataggio che hanno fatto per caso in Himalaya, che durante una serie di valanghe impreviste per la stagione erano lì per scalare per i fatti loro, e siccome lui faceva parte del soccorso alpino di Cortina con altri due suoi compagni, si sono praticamente presi il carico e questa cosa è conosciuta perché ancora adesso c'è lo stesso funzionario al Ministero degli Esteri, infatti l'altro giorno che parlava delle montagne, ho visto che era ancora lui, e hanno salvato una quarantina di persone su un centinaio, lavorando 15 giorni in condizioni molto molto estreme, perché come gli altri avevano appunto erano stati sotterrati, anche loro potevano, e quindi per questa azione hanno poi ottenuto una medaglia. Ma al di là di questo, comunque lui era un personaggio molto spiritoso, molto familiare con tutti, quindi questo aveva una specie di aura sua, non l'aspetto diciamo delle sue imprese non veniva enfatizzato, perché questo è quello che fanno normalmente le persone che cominciano ad avere delle qualità, non ne parlano, fanno operano direttamente e sono assolutamente normali con gli altri. E allora vogliamo leggere un brano, perché sono veramente curiosa, dai, un assaggio per incuriosire i nostri ascoltatori. Allora, che cosa prendiamo? L'atletica? Prendiamo la montagna? Io andrei per la montagna. Allora, andiamo per la montagna, vediamo un po', ecco, c'è per esempio, c'è il passaggio dello Butch Peak, che era questo punto quando hanno dovuto gestire le valanghe, oppure c'è la salita al Gamspitz, che è il monte sopra Timau, dove c'è un famoso museo della Prima Guerra Mondiale, lo ricordo. Ma andrei per la salita, sai, perché la salita è un po' più... Allora, il Gamspitz, il 202, che questo, faccio notare, è l'unico documento originale di Erwin che mi è arrivato, tutto il resto io l'ho montato da testimonianze di altre persone. Allora, vado? Sì. Ok. Nell'ampio calderone dei suoi desideri, Nick è il nostro protagonista, che per esigenze di diverso tipo l'ho chiamato Nick. Nick è Erwin, quindi ritorno. Nell'ampio calderone dei suoi desideri, Nick da qualche tempo ne custodiva uno che ogni tanto lo portava a riconsiderare quell'idea. Dallo spiazzo erboso su cui sorgeva la baita di famiglia, si inquadrava una paretona che obliquamente chiudeva la visuale. Imponente, bianca e inaccessibile. Tante volte il suo sguardo si era bloccato lì contro e aveva accarezzato la geometrica sagoma fino in cima. La parete, per la sua fiera bellezza, non passa inosservata nemmeno al visitatore che transita nei pressi del borgo di Timau e che la vede sovrastarlo nella sua verticalità di 800 metri. Se vogliamo risalire all'origine, racconta Nick alla televisione regionale, quella via credo che spettasse proprio a me aprirla. Io vivo e lavoro a Cortina, dove è lo stimolo di una tradizione alpinistica tra le più severe, e la bellezza di quelle montagne mi ha spinto con i miei colleghi ad aprire le mie prime vie. Tuttavia qualcosa adesso manca affinché le possa considerare mie. Mi sento profondamente radicato nel mio paese dove vive la mia famiglia e dove torno ogni volta che posso. Perciò decisi che se dovevo dimostrare qualcosa l'avrei compiuto sulle montagne a cui sono affezionato, luoghi non famosi in cui però si può cimentare ugualmente in qualcosa di interessante. Il Gamspitz per la via sud attirava sempre di più Nick. Come si potrebbe fare? Si domandava. Ne parlò con Ivan, che è il suo amico fedele, tra parentesi. Questi non vedeva l'ora di rifare qualcosa con l'amico col quale aveva sempre avuto perfetta sintonia. Se volevano salirci in quella stagione non c'era tempo da perdere. Cominciarono gli appuntamenti in biblioteca o al CAI per studiare la documentazione. Ecco, adesso io salto un po' perché loro hanno impiegato 5 giorni a salire questa parete. Siccome questa è praticamente la radiocronaca quasi in diretta della salita, prendo ad un certo punto e parto per esempio al terzo giorno, che loro hanno già avanzati un pochino, e ogni giorno poi dopo ritornavano indietro perché dovevano trovare del tempo. Settembre stava avviandosi alla fine e le possibilità di terminare la via diminuivano, parimenti dai giorni di bel tempo. A causa di servizi non compatibili ed esigenze, trascorsero ancora 15 giorni prima che i due amici potessero rimettere mani all'opera. il 24 settembre, con molta rapidità, Nick e Ivan giunsero all'attacco della via. Nick il giorno prima aveva trasportato tutto il materiale necessario per l'ascesa per far sì che l'avvicinamento fosse compiuto il più velocemente possibile. Alle 8.30 i due alpinisti si trovarono ai piedi dei determinanti 8 tiri di corda, sperimentati prima. Erano a tal punto risoluti che, se in quel giorno non fossero riusciti ad arrivare in vetta, avrebbero trascorso la notte in bivacco sulla parete. Questo perché il dispendio di energia nello scendere la sera e risalire il giorno dopo sarebbe stato troppo grande e una volta arrivati su non avrebbero avuto forza sufficiente per compiere i nuovi tiri. Da quel momento per loro ebbe inizio la magia. Arrampicavano veloci sul percorso già aperto, dandosi la voce di tanto in tanto senza percepire la fatica. Era veramente eccitante pensare di giungere alla meta. 1 ora e 20 minuti impiegarono per portarsi alla cengia, passando i quinti, i sesti, gli ottavi gradi. Dopo altri 15 minuti si trovarono al termine del lavoro svolto nelle settimane passate all'inizio della nuova avventura. Come sempre uno tirava, cioè arrampicava per primo aprendo la via, e l'altro lo assicurava mentre mangiava frutta secca. Straordinaria macchina il corpo umano che in breve tempo trasforma il cibo in energia per muoversi e scaldarsi, la più efficiente che esista a questo scopo, con poche perdite e molto lavoro come risultato. Ma nel loro caso contribuiva anche il desiderio di superare la prova. Già 2 tappe aveva richiesto la parete, non solamente vincolate dalle condizioni meteorologiche e dalle ore a disposizione limitate, ma anche dalle contrarietà. Per superare queste, loro avevano attinto alle forze rinnovate e ribadito le intenzioni iniziali. Così proseguendo giunsero ad un sorprendente tetto che oscurava la continuazione del cammino. Anche questo ostacolo a prima vista parve inespugnabile e suggerì loro di mutare di direzione. Si concessero una sosta di mezz'ora e mentre riflettevano videro l'amica aquila comparire sopra la parete verticale e tenere d'occhio le loro vivaci figure. Dovevano trovare un passaggio per quel tetto. E se dopo c'è un deposito di sassi che ci vuole in testa, non è proprio raro che ne cadano da questa vetta. Ivan rispose che secondo lui avrebbero già avuto qualche avvisaglia, essendo un giorno ventilato. Comunque davanti vedevano tutta bella roccia compatta, sebbene insormontabile, e preferivano immaginare che dopo il difficilissimo passaggio avrebbero incontrato un profilo migliore. Videro giù la molta strada percorsa e ciò li spronò a proseguire, impegnandosi in un passaggio di 8° e in mezz'ora riuscirono a superare la sporgenza. La parte sovrastante continuava la sua pendenza per tratti più o meno difficoltosi, però ai 2 scalatori, 5° e 6° gradi, sembrarono persino facili dopo aver superato i 7° e gli 8°, per cui procedettero per altri 7 tiri in velocità sorprendente. L'ultimo e 14° tiro toccò a Nick. Erano le 17.15 del 24 settembre 1997 e tra la vetta del Gamspitz del cielo non c'era solo l'aquila, ma anche lui. Trattenne la gioia e senza dire nulla al compagno, attese che questi lo raggiungesse in cima. E questo è un passo molto bello a mio avviso, perché tra di loro non gli ha detto la sorpresa, non gli ha guastato la sorpresa dicendogli guarda che siamo arrivati, certo. E aspettato che venisse su e l'altro ha scoperto che erano arrivati in punta. Salutiamo i nostri amici di viaggio, Georges Laurent e Fiordaliso, che ci hanno raggiunto qui nei nostri studi. E una domanda: qual è stata la caratteristica che più ti ha rapito e colpito di Erwin? Vediamo. Beh, per me quello che è stato straordinario è pensare che un ragazzino a 12 anni, 15 anni decida di fare l'atleta, ecco, questo, e che a questo sogno rimanga fedele e passi attraverso tutte le difficoltà senza mai perderlo di vista. E poi nel momento in cui lui l'ha abbandonato, perché l'ha abbandonato a 23 anni, in quanto ad un certo punto ha detto addio ai metodi che venivano usati per forzare gli atleti quando per era... volare con le ali, no? Altrimenti. Ecco, appunto. E lui ha detto no, io questo gioco non ci sto, me ne vado. E quindi ha detto vabbè, se l'atletica vuol dire andare sempre avanti, anche contro il proprio corpo, non lo faccio. E si è rivolto a quel punto alla montagna, perché era più vicino a lui. Però questa idea poi dopo in effetti l'ha di nuovo trasposta sulla montagna, ancora, cioè, c'è ancora competizione, c'è ancora sfida, per quanto sia meno evidente, però c'è sempre una specie di classifica, perché questi ragazzi hanno una competizione nel sangue, credo. Assolutamente. George. Mi faceva venire in mente. Lui è uno sportivo veramente tra i migliori che io abbia mai conosciuto. Tra i migliori, è molto lontana la verità, però mi ricordo quando sono arrivato a un settimo più. Lì mi sono fermato. Complimenti. Quando ero arrampicato. Cos'è George, tipo la cintura nera in karate? Ma si arriva fino a 12, quindi immagino. Ah, 12 è praticamente una parete liscia, credo che abbiano delle. Spider-Man. Sì, sono geneticamente modificati per fare un dodicesimo, non so come si possa fare. Però ho visto qualcuno arrivarci. Si arrampicava, ecco, con delle cose veramente. Già, gli ottavi bisogna per arrivare ad un ottavo, so che ci mettono da un quarto, che è una cosa che uno con un po' di allenamento può fare. Dai quarti agli ottavi sono 3 anni duri di allenamento. E naturalmente bisogna avere il fisico. Sì. Quindi immagino, insomma, poi. Per arrivare oltre, diciamo che quando si scala, quello che mi hanno detto, per fare una parete che è abbastanza difficile e sconosciuta, non si può arrampicare, che si sa che ci sono delle difficoltà del grado settimo, per esempio, non si può andare, se uno sa di affrontare il grado settimo, ma deve andare con delle capacità superiori perché non sa quali imprevisti può trovare, quindi c'è anche questa cosa. Sì. Bene, allora invece eravamo curiosi di ascoltare qualcosa di qualcosa come. Prima di tutto perché è un po' un'anteprima e di questo ovviamente ti ringraziamo. E secondo per cercare, insomma, di capire di cosa si racconta, di quali racconti ci racconterai. Sì, qualcosa come è qualcosa di completamente diverso e il titolo ha vuole appunto suggerire una situazione non definita, ecco, non è volare senza ali, diciamo che è proprio l'opposto, è qualcosa che c'è e non c'è. Quello che possono avere in comune questi due libri, per quanto paradossale possa essere, è che dunque qualcosa come una raccolta di novelle, alcune brevissime, altre abbastanza lunghe, da 20-25 pagine, e quello che hanno in comune sono c'è normalmente un piccolo sogno che muove i personaggi. Ecco, per Erwin il sogno è stato la sua vita. Qualcosa come invece è molto diverso. Allora, le storie riportate sono quelle di personaggi dall'ombra minima che coltivano un loro piccolo desiderio, però spesso si scontrano con tutta una serie di situazioni, vivono sulla soglia di un presente che li respinge e li proietta in tempi sconosciuti, popolati di visioni e promesse di redenzione alle quali quasi mai riusciranno ad accedere. Ci sono fantasmi, proiezioni, ci sono cortine di eventi inquietanti che sono mascherati da avvenimenti di aspetto ordinario. E quindi in questi fatti ordinari il personaggio vive pensando che sia qualcosa di consueto ed arriva ad un certo punto a trovarsi a gestire qualche cosa che è al di fuori, che si è accresciuto a dismisura. Questo fantasma, questa strada popolata di fantasmi è come uno scambio di un treno che è bastato fare un click e anziché andare in una direzione si è andato in un'altra. E all'inizio il personaggio appunto ha l'impressione di scegliere, invece poi alla fine si trova in queste situazioni molto difficili da gestire, delle specie di incubi, e a volte le passioni e i sentimenti gentilmente generati si deformano ingrandendosi e diventano pesi abnormi che schiacciano chi si trova prossimo. Ecco, questo è un po' il riassunto, quindi i racconti sono molto diversi tra di loro. Quanti sono in tutto i racconti? Devo ancora effettuare la selezione finale, diciamo che saranno dai 17 ai 20. C'è un motivo conduttore oppure saranno tutti temi a sé stanti? Il motivo conduttore è un po', sì, delle persone normali che ad un certo punto, ma non vincenti, non sono delle persone vincenti ma non sono neanche dei perdenti. E quindi sicuramente c'è i personaggi di questi racconti sono delle persone che stanno a metà, più verso il basso che verso l'alto, e la cui vita può cambiare da un giorno all'altro. Quindi ne descrivi il quotidiano oppure le ambizioni, quelle più profonde? Il quotidiano normalmente, e poi quella cosa che ad un certo punto comincia a muovere la storia. Ecco, queste storie sono un genere generate da una specie di immagine, a volte da un sogno, con un'immagine sola, attorno a cui ho lavorato. Quindi i personaggi sono pochi, perché c'è sempre uno, due o tre, non di più, c'è un personaggio principale che fa delle cose, che ha un, noi prendiamo uno scampolo di questa sua vita, e in quel periodo succedono delle cose. Sono le 9, ecco qui, ci tenevamo a ricordarlo. Ci ha preso così la sprovvista. Allora, noi tra poco avvieremo quella che è la nostra Brussellando abituale, quindi magari, non so, c'è qualche altra cosa che, di cui ci vorresti raccontare prima di salutarci? Vabbè, se vi interessa tutto quello che ho detto, certo che ci interessa, vi posso mandare sul mio sito. Assolutamente. Che sta per essere più o meno concluso, non è al 100%, ma c'è già abbastanza, che è www.mgvilla.com. Il nome è Saper Margherita Gisella Villa, ma è tutto attaccato e senza punti, mgvilla.com. Quindi noi invitiamo tutti i nostri amici, le nostre amiche, ascoltatori ed ascoltatrici, a visitare questo sito, a quanti ovviamente volessero riascoltarci, a scaricare il nostro podcast. E continuiamo a ringraziare tutti coloro i quali visitano abitualmente il nostro blog, perché stiamo andando forte, ragazzi, grazie a voi siamo arrivati ad avere una media di circa 100 ascoltatori al giorno, il che per una piccola radio come la nostra è davvero un grande successo. Ovviamente questo lo dobbiamo a voi, lo dobbiamo alla vostra fedeltà, alla vostra pazienza, e ovviamente sicuramente anche ai nostri ospiti, che riescono sempre a incuriosirci e accattivarci con le loro mille e una storia. Quindi prima di proseguire, ovviamente io ringrazio Margherita, le auguro un ottimo rientro a Maastricht, una città insomma a tutti noi nota per tutta l'altra serie di ragioni. Trattato è ormai un dato di fatto e acquisito. Ringrazio Dani M alla regia, che vedo già pronto per suggerirci una chicca musicale. Sarò solamente un sorrino, lontano, eccoci qui, care amiche e cari amici. Questa è una puntata abbastanza diversa e particolare, perché questa sera volevamo un attimo scherzare, divertirci, quindi siamo informati leggermente da scherzo, e quindi avrete notato che c'è un po' di, c'è qualcosa di diverso, quindi insomma lo scherzo dovevamo poterlo organizzare in qualche modo. Margherita è ancora qui con noi, probabilmente durante la trasmissione ci sarà modo di farle ancora qualche domanda, tanta curiosità infatti ha suscitato questo suo protagonista chiamato Nick, che in realtà Nick non è, gli è stato attribuito questo nome dall'autrice stessa. Però una domanda, già che sei ancora qui con noi, mi sembra un attimo doverosa per, anche verso i nostri ascoltatori. Come mai poi, insomma, come vieni a mancare Nick? Allora, Nick, che è Erwin Meyer, chiarisco anche questa cosa, che del perché ho scelto questo nome. E i personaggi hanno tutti nomi fittizi perché sono attualmente nello stesso posto che io li descrivo, quindi per rispetto della privacy, e anche perché molti di loro non volevano assolutamente comparire nel libro, quindi ho dato dei nomi diversi agli interpreti di tutto il libro. C'è una piccola chiave per scoprire chi sono, ma comunque questo poi, se leggete il libro, lo troverete. E avere gli esperti del settore, a quelli che già sanno, che già conoscono. No, io direi che si può anche riuscire a fare, insomma, dove è un po' una specie di ricerca, è un libro dentro al libro, perché mi sono dovuta costruire una specie di fiction dal momento che la gente non voleva partecipare ad entrare in questo libro, quindi ho dovuto far finta che era qualcos'altro. Ecco, questo, da una specie di difficoltà tecnica è venuta fuori un romanzo che è una biografia romanzata che è abbastanza unica nel suo genere, infatti diciamo che quel poco di critica che c'è stato l'aveva segnalato proprio per questa sua particolarità di essere in metà. Comunque, per tornare alla domanda di Marilena, Erwin è deceduto accidentalmente sull'Eiger durante il primo tentativo di salita, quando era circa a metà della parete, per una caduta di sassi che gli ha praticamente fratturato le vertebre cervicali, e quindi ha perso la vita su un monte che è notoriamente pericoloso. Se volete sapere qualcosa di più di questo monte, c'è un bellissimo libro di Henry Charrer, che è Parete Nord, che fa praticamente tutta la serie parla di tutti gli scalatori. Voi conoscerete sicuramente qualche cosa di Henry Charrer, perché c'era quel film con Brad Pitt che ha fatto, com'era? Chi è che mi aiuta a ricordare come si chiamava quel film? Tibet. Sì, quello del sei anni in Tibet. Perfetto. Ecco, Henry Charrer era un famosissimo alpinista degli anni 30-40, credo, e che poi ha scritto quando non ha più scalato. A me questo libro era piaciuto molto, anche se era una specie di elenco, perché era comunque una persona che sapeva delle sue cose. Comunque sono venuta a contatto con tutto questo mondo degli alpinisti, che è un mondo molto chiuso, quindi da questo punto di vista riuscire a farsi dire qualche cosa per una profana è stato una cosa non da poco, perché loro parlano tra di loro, giustamente, io anche con un linguaggio proprio, immagino. Settimi gradi non li ho mai fatti, e quindi avere la loro disponibilità a parlare di montagna in un altro modo era qualcosa di un po' particolare. E tu, attraverso, diciamo, insomma, comunque sei stata brava, perché da quel poco che ho potuto ascoltare prima, infatti ne abbiamo letto un estratto, sei comunque, mi sembra, riuscita a descrivere molto bene quello che è il pathos dello scalare poi questa vetta. Sì, sì, questo naturalmente c'è sempre, perché c'è una specie di idea, infatti, gli alpinisti, quando, come in questo caso Erwin, quando fanno una via nuova, hanno una specie di flash e fanno in modo che gli altri non gliela freghino. Perché lui, quando appunto questo passo che ho letto del Gamspitz, quando ha deciso di scalarlo col suo amico Ivan, che è Walter Nones nella realtà, che è un valente alpinista, chi conosce un po' il mondo in Italia lo conosce, e hanno fatto bene attenzione a non farsi scappare con nessuno l'idea, perché è una specie di opera d'arte nel loro piccolo. E la cosa buffa di questo monte è che hanno fatto metà monte pensando di essere i primi a farlo, dopodiché ad un certo punto hanno trovato una fettuccia che è una cosa che è rimasta appesa su un chiodo, e allora si dicono: accidenti, ma come, non siamo i primi? E lì a quel punto hanno deciso di deviare, facendo a metà monte, facendo una via molto più difficile, per essere comunque i primi, salvo poi accorgersi che questa spedizione, che era una spedizione austriaca, e sotto al bar gli hanno poi detto che c'erano questi austriaci che avevano iniziato a scalare, però poi c'era stato un incidente, quindi si erano ritirati, quindi in teoria avrebbero potuto continuare a fare questa via, però poi ne hanno scelta una sì, vicina, un po' più difficoltosa. Questo per dire che dietro ad ognuno di queste scalate è una specie di progetto che richiede mesi di preparazione, senza contare l'Himalaya, che sono allora centinaia di milioni. Adesso non so quanto è che costa, perché io queste notizie le ho avute dagli anni 2000 al 2005, quando non c'era ancora abbastanza lire in giro, e quindi adesso non so bene. Certo, assolutamente. Allora, noi ovviamente ringraziamo Margherita, non so se intanto George ha ancora una domanda prima di proseguire con le nostre rubriche abituali. Non riesco a fare domande, perché sono troppi ricordi che mi vengono. Addirittura c'è una via sulla Marmolada che è stata aperta, ed è l'unica via alpina, credo, che porta il nome di una porno star. Wow, davvero? Sì, per ridere e scherzare. Il nome di una loro porno sono pazzi, gli alpinisti sono pazzi, veramente. In effetti io ho visto delle foto di questi libretti delle vie, e uno si chiama, non so, Gatto Silvestro, l'altro sì, si chiama Titti, l'altro, appunto, ci sono anche riferimenti, sì, così... vola con la Maria, per dire. Sì, sì, io lo ecco. Ogni persona che apre una via, poi c'è una via per dire, sì. C'è una specie di, quello che dico anche nel libro, di trasfigurazione spirituale, mentale, nell'ascesa, e quindi viene fuori un po' di tutto, come durante un grosso sforzo che ad un certo punto viene fuori il lato fantasioso e pazzo, e si valica la frontiera del normale per fare delle cose un po' diverse. Allora, che poi sarebbe simpatico capire dove l'alpinista stabilisce essere la frontiera del normale, perché anche lì ecco, in effetti una frase che dicevano loro, dicevano, volevano fare l'Aiger, e dice: ma non per sentirmi alpinista, perché quello non so quando è che mi sento, non c'è un modo per definirsi, dice, dopo che ho fatto quello sono diventato un alpinista, questo non si può dire. E da questa tua passione, diciamo, è nato poi un impegno nell'alpinismo, oppure è rimasta soltanto una... No, diciamo che a Paluzza, che è il paese dove finalmente mi conoscono, dico finalmente perché li ho frequentati con una grandissima fedeltà per tanti anni, e poi mi hanno ripagato che quando ho presentato il libro c'era il teatro pieno di gente, e allora, e tutti mi dicevano: ah, grazie, meno male che ha scritto sto libro, però prima hanno fatto di tutto per osteggiarmi, però quella sera lì devo dire che sono stata veramente contenta, perché ho detto: questa gente si è arresa al fatto che ho finalmente scritto qualcosa, perché temevano che diventasse chissà cosa. In effetti è diventato quello che è diventato, ma meglio questo che niente, perché alla fine gli mettono uno stele e la cosa finisce. Ma da questa tua stesura, da questa tua scrittura sono emersi segreti, pettegolezzi, insomma, dicerie. Moltissime. Moltissime, infatti ho dovuto cambiare delle storie completamente, perché alcuni non si meritavano di avere un bel ruolo, e quindi mi sono vendicata, ovviamente. È il potere della penna. Siccome questa è una fiction, alla fine ho dovuto abbracciare questa cosa e l'ho portata avanti. Ho detto: tutto mi è consentito, allora giochiamo. E certi personaggi li ho cancellati, di altri non vi dico delle cose perché è meglio non dirle. E comunque, certamente, quando uno scrive un libro di questo tipo, che ho comunque voluto, lui era pulito e sincero, però molta gente che gli era vicino non lo è, e l'ho scoperto, perché in un paese sapete come sono, che c'è tutto battibecchi e dicerie, come dici. Certo, ma in questo libro allora quanto c'è di scherzo e quanto c'è invece di veritiera? Questa è la domanda. Diciamo che almeno un 50% è vero, però vi faccio notare che all'inizio io ho scritto che le vicende narrate in questo libro ripercorrono in linea generale la vita e i luoghi di Erwin Mayer. In particolare, gli episodi sportivi sono da ascrivere a quelli realmente vissuti dal giovane carabiniere, e a questi sono rimasta fedele, intendendo tributargli il dovuto peso. Al contrario, alcuni personaggi secondari, fatti e luoghi a cui faccio menzione sono stati inventati per esigenze di scrittura. E con questo mi sono salvata, e quindi ho potuto scrivere quello che volevo. Beh, certo, un paese come... Quanti abitanti sarà? Fa 1200 abitanti. Ah, piccolissimo. Sì, molto piccolo. È una comunità autonoma, è un organismo vivente. Con sì, tutti... sì, ecco, mi sono fatta anche molti amici, e questo, sì, devo dire che grazie, ci sono, adesso abbiamo parlato delle cose brutte, senza alcune persone che veramente mi hanno preso per mano, non avrei potuto fare questo libro, il CAI di Tolmezzo, il CAI di Ravascletto Sutrio, che ci sono state delle persone che mi continuavano a spedire materiale quando c'era qualcosa, quando andavo in Italia mi dicevano: guarda, ti abbiamo preparato questo incontro, mi mandavano cassette, mi mandavano registrazioni. Quindi senza di loro questo libro non l'avrei potuto fare, e ci sono appunto alla fine ringraziamenti, perché sicuramente c'è un grande alpinista che si chiama Sergio De Infanti, che abita a Ravascletto. Se per caso ci andate, fateci un giro, perché è un personaggio. Ravascletto, sì. Ravascletto, vi faccio notare che è in una valle che si chiama Valcalda, che però, siccome era vicina all'Austria, si chiamava Cold una volta, che poi dopo è diventata italiana e Cold calda, freddo. E però dopo dall'italiano l'hanno tradotta calda, quindi è una vallata molto fredda che però si chiama Valcalda. Comunque, se andate lì, lui gestisce la Pace Alpina, una specie di campeggio, ristorante. È un personaggio col suo sigarone, ha scalato dappertutto nel mondo. Nonostante il sigaro. Sì, nonostante il sigaro, si è fatto il Perù, ha fatto Turchia, è un pazzo, e ha fatto Liger e ha perso il suo amico. Infatti Erwin, prima di fare Liger, è andato da Sergio e dice: cosa faccio? Io voglio farlo. E l'altro gli ha detto: se hai un'idea in testa vai, perché se non te la togli ce l'hai per tutta la vita. E quindi questa idea poi in effetti e questa idea è stata quella, diciamo che la vita di Erwin è stata una specie di meteora. Lui ha sempre corso, ecco, ha fatto tutto di corsa, chissà, forse le persone nascono con questo destino, e credo che sia stato anche veramente molto contento durante, anzi lui pensava che scalare presentasse molti meno pericoli rispetto a qualsiasi viaggio in auto, per cui diceva, quando vedeva qualche ragazzo che si ammazzava, diceva: guarda, si è ammazzato come un fesso, tanto vale che vada in montagna. Anche perché, voglio dire, una scarica in montagna è una cosa assolutamente casuale, non è che uno può prevederla. Certo, non è prevedibile. E poi l'Eiger è un monte assolutamente, sono 1700 metri di parete, che è una specie di scudo rovesciato entro cui corre di tutto, e soprattutto queste frane, perché il gelo e disgelo fa correre giù di tutto, e quindi lo sappiamo. Insomma, è venuto giù metà, sì, metà ghiaione del Pelmo alcuni anni fa, credo 7-8 anni fa, proprio dopo il disgelo, uno degli anni in cui aveva nevicato, quindi creava veramente un sacco di problemi. E comunque le scariche sono, come diceva Alessandro Baricco in riferimento al quadro Il Chiodo, c'è un giorno in cui il quadro cade e il chiodo non tiene più, perché oggi non viene. E che succede? La stessa cosa. Discussione, casualità. Allora, noi ringraziamo Margherita, ovviamente, e ti ringraziamo davvero di questa tua presenza qui in radio. Spero che noi tutti speriamo di poterti avere nuovamente ospite, magari quando qualcosa come sarà pubblicato, magari possiamo anche presentarlo qui a Bruxelles, perché no? Noi veramente te lo auguriamo. E un saluto in particolare, così. Ci sono, sì, dei friulani qua a Bruxelles, che io lo so perché mi hanno anche ospitato alla sala del Friuli per presentare il libro. Per me sono sempre, insomma, i Friuli ci torno volentieri, ci ho abitato, ci sono tornata, sono andata a scrivere questo libro, insomma, i Friuli ha dato i natali a delle persone così, che per me comunque dal punto di vista umano era una persona straordinaria, quindi insomma il Friuli è qualcosa di benissimo. Allora, è una bella terra, assolutamente. Vi ricordiamo quindi Volare senza ali di Margherita Villa, edito da CDA Vivalda Editori. Il libro è stato editato, se ho ben capito, nel 2006 ed è stato già presentato in Italia, ovviamente in Belgio e in Olanda, dove è il paese di residenza attuale di Margherita. Noi tutti ringraziamo Margherita e speriamo di averla nuovamente qui nostra ospite prossimamente. Grazie, buonasera. Buonasera ed eccoci a un appuntamento con la musica jazz, questa sera in assenza di Stefano, per cui lo salutiamo assieme a Georges Maridi. Stefano è in altre faccende affaccendato, ma sarà con noi presto. Questa sera parliamo di gioco e scherzo e iniziamo con un musicista che ha ricevuto uno scherzo dalla sorte, soprattutto parliamo di Michel Petrucciani, grandissimo pianista, che come sanno Petrucciani, per favore, esatto, anch'io andrei sul Petrucciani. Come sanno tutti i suoi appassionati, nasce con questa condizione grave, una malattia che lo rende deforme, con delle grosse difficoltà fisiche, e però reagisce con una enorme spinta creativa che lo porta ad essere sicuramente uno dei pianisti più influenti e godibili degli ultimi 10-15 anni sicuramente. Iniziamo subito e poi diciamo due parole sul suo pezzo. Questo è un pezzo che tra l'altro si chiama Giocami, Play Me, da un suo disco dell'89 che si chiama Music. È un pezzo che parte dolcemente ma poi si carica molto di energia, anche funky. Michel Petrucciani. Petrucciani, questo pezzo del 1989, Play Me, Giocami, avete sentito che energia funky con la batteria di Steve Gadd. Ti è piaciuto, George? Mi è piaciuto un bel po', mi piace molto Petrucciani, tra l'altro ho avuto la possibilità di vedere un concerto, piccolissimo concerto, fatto a Bologna qualche mese prima della sua morte. Quindi. Con chi? Forse l'hai visto con Di Battista? No? Sì. Anch'io l'ho visto con Di Battista a Ferrara, anche sempre in quegli anni. Petrucciani, primo pezzo, e rimaniamo nei grandi con il secondo pezzo, che è di Thelonious Monk, pianista tra i fondatori del bebop, che ascoltiamo questa sera con un pezzo registrato nel 1963, Criss Cross, da un album omonimo, su cui Monk suona assieme a John Orr al basso, Charlie Rouse al sax tenore e a Frankie Dunlop alla batteria. Andiamo con Thelonious Monk, da Criss Cross, Criss Cross, 1963. Crisp. Criss Cross di Thelonious Monk, un episodio giocoso, divertente della vita di Thelonious Monk è quello del 1958, quando gli capita di essere arrestato dalla polizia di New York perché lo trovano assieme a una delle grandi protettrici della musica jazz in quegli anni, che è la baronessa de Königswater, anche detta Pannonica o Nica, perché il cognome era un po' complicato. Insomma, lo trovano nella macchina di lei con valigie di droga intere, una cosa da narcotrafficante. Insomma, sì, appunto. Gli ha fatto uno scherzo. Uno scherzetto. E la cosa divertente è che li fermano, ma acconsentono i due a farsi perquisire, ma siccome la baronessa de Königswater era dotata di risorse economiche, trova un ottimo avvocato, che tra l'altro è uno dei primi avvocati a difendere in quella zona afroamericani, come Monk naturalmente, che prova che il consenso a perquisire la macchina è stato dato sotto l'effetto degli stupefacenti, per cui non era valido, e la polizia negli Stati Uniti non può perquisire senza l'assenso del conducente di una vettura, almeno non poteva in Delaware in quegli anni, per cui vengono scagionati. Questa è la storia. Che grande, un grande, avrei voluto essere io quell'avvocato. avresti fatto la fortuna di... Scusa, un genio. La baronessa era ungherese. La baronessa di Königswater, non ti so dire da dove veniva, ma sicuramente aveva un po' di... George Pannonica è ungherese, la Pannonia. La Pannonia ungherese. Sì, ma per la Pannocchie. Ma poteva essere anche solo un soprannome. Diciamo, il nome di battesimo era proprio Pannonica, tanto che esiste uno standard in jazz dedicato a lei, perché lei, oltre a Monk, aiuta molto Charlie Parker e tanti altri, per cui è una figura veramente importante di quegli anni. Che bella. Continuiamo con giochi e scherzi, con... un altro musicista che si esprime soprattutto nella prima metà del Novecento, che è uno dei fondatori assieme a Monk appunto del bebop, che è Coleman Hawkins, grandissimo sassofonista, del quale sentiamo un pezzo che si chiama Too Much of a Good Thing, e qua ritornano gli scherzi, perché George, un bel gioco? Ogni bel gioco dura poco. Dura poco. Allora, in inglese, quando c'è troppo di una buona cosa, stroppi, il troppo stroppi. Allora, questo è un pezzo che ricalca questa idea, che anche le cose buone vanno prese nella giusta misura. Ascoltiamo Coleman Hawkins da una registrazione del 45, Hollywood Stampede, e il pezzo è Too Much of a Good Thing. Thank you. Human Hawkins, Too Much of a Good Thing. Questo è un disco del 45 che contiene assolutamente ancora degli elementi tradizionali di swing. Giustamente George, ecco, chiedeva. Ecco, io chiedevo, infatti sentivo dello swing, nella mia profonda ignoranza musicale, mi sembrava di sentire dello swing. Sicuramente sì, invece vedi che non sei per nulla ignorante. Cioè, c'è una pena dei principi. C'è ancora questo elemento melodico un po' più gentile dello swing, jazz che va avanti tranquillamente fino a inclusi tutti gli anni 40 e che è più debitore, diciamo, della musica bianca anche, con delle melodie un po' più arrotondate, delle ritmiche un po' più prevedibili. Invece il bebop assume un'aggressività nella ritmica che è più angolare, più sincopata, nelle melodie che sono più distoniche, introducendo molto più frequentemente delle note sfasate che vengono dalla musica africana, ed è una musica essenzialmente più ribelle e anche un po' più giocosa, tutto sommato, per cui va benissimo nella puntata di oggi. Coleman Hawkins è uno dei grandi geni sicuramente, e con col Thelonious Monk, di cui abbiamo parlato prima, collabora abbondantemente. Fanno molte registrazioni assieme, un combo, una band storica degli anni 40, è quella di Monk assieme a Patti Ford, Miles Davis e Mack Roach, e Coleman Hawkins in questa ambiente crea veramente la storia di quegli anni. E facciamo un salto in avanti per chiudere con il nostro percorso nel gioco di questa sera agli anni 70, parlando di gioco con un animale molto giocoso e scherzoso che cambia il suo aspetto e il suo colore a seconda dell'ambiente che lo circonda. Quale sarà mai, George, questo animale? Cammello. Il cammello, forse. Il rinoceronte. Il ruggito del cammello. Ecco, è l'incrocio fra il cammello e il rinoceronte, cioè il camaleonte. Esattamente, è proprio lui, il camaleonte, al quale Herbie Hancock, che è il musicista di cui parliamo ora, grandissimo pianista, tastierista, innovatore, dedica un pezzo da un disco, come si dice, nell'ambiente seminale, cioè che ha veramente cambiato un po' la storia della musica. È un disco che si chiama Headhunters, Cacciatori di Teste, del 1973, in cui Hancock e i suoi compari d'avventura davvero introducono quello che noi chiamiamo jazz funk, e cioè la modalità un po' più aggressiva, vicina alla musica anche ballabile, ritmata in modo molto, molto danzereccio, della musica jazz, dunque che la avvicina alla musica funk. Questo disco del 73 poi è diventato storico, tra l'altro vi abbiamo fatto sentire in un'altra occasione un pezzo tratto da questo disco che è Cantaloupe, ripreso negli anni 90 da questa band americana che si chiama US3 o US3, che ha un enorme successo commerciale, perché in Headhunter ci sono delle ritmiche talmente efficaci, talmente divertenti, talmente ballabili, che è musica attualissima, che possiamo ascoltare oggi senza per nulla accorgersi che ormai ha 36-37 anni. Ascoltiamo Herbie Hancock nel classico Headhunters del 1973, il pezzo è Chameleon. I'm Herbie Hancock da Headhunters, e George faceva un commento molto giusto durante il pezzo, diceva: ma qui mi sembra di sentire una chitarra, ed è vero che sembra una chitarra, ma invece non lo è, perché Herbie Hancock fa una scelta stilistica molto originale, elimina la chitarra da questo disco, anche se ha delle influenze funk in cui la chitarra ha un ruolo importante, e la sostituisce solo con le tastiere, i synthesizer, i sintetizzatori, dunque, che ancora nel 73 sono degli strumenti un po' rudimentali, ma funzionano. Con questo disco bellissimo del 1983, Herbie Hancock, e non possiamo non ricordare alla batteria Harvey Mason, alle congas e percussioni Bill Summers, al basso Paul Jackson e al sax soprano Maupin, Benny Maupin. Vi salutiamo per questa sera, un saluto a tutta la famiglia di Bruxellando e anche a George, che ha contribuito con argute osservazioni al segmento jazzistico di stasera. Un saluto particolare a Stefano, che grande tornerà Stefano. Presto. Grande un abbraccio Stefano. E buona serata. Ciao. E adesso ci lasciamo con un consiglio. Oh, eccoci di ritorno, miei cari. Benvenuti, benvenuti. Beh, allora, insomma, all'alba delle 21:40, cioè con 40 minuti di trasmissione alle spalle, finalmente riveliamo il tema di questa sera, perché non mi pare che nessuno l'abbia rivelato, o sbaglio? E vi abbiamo fatto una fregatura, tirato un pacco. No, abbiamo uno scherzo. Ecco il tema, uno scherzo. Scusa, non ho capito il suggerimento, sono duro d'orecchie. E beh, che ci vuoi fare? La vecchiaia mi impedisce di capire. Scherzo, che cosa non sono scherzo? Più i tempi in cui facevi l'arrampicatore sociale. Tu arrampicavi, Giorgio, svegliando. Sì, io arrampicavo, facevo del free climbing quando ero giovane. Sai perché? Perché non gli avevano spiegato che quando l'ascensore non va bisogna prendere le scale, allora lui si arrampicava. Esattamente, io mi arrampicavo poi. Ma Giorgio, sei nel fiore degli anni, hai una prestanza fisica che quasi mi spaventa starti vicini. Sì. Sei pannonico. Mi hai dato dell'ungherese. Ti ho detto che sei pannonico. No, io invece sono un po' colpito, perché adesso il tema di oggi era lo scherzo, abbiamo sentito nel jazz, insomma, lo scherzo, l'uso del bebop come scherzo, come si può comprendere questa parte scherzosa, giocosa, e quello che invece non era uno scherzo, però era doveroso, intervistare Margherita Gisella Villa, perché il suo libro è veramente un libro bellissimo, che di fatto si basa sul gioco, cioè il gioco di una vita, che è quella di Herbie. Però quello che mi sto chiedendo è: che rapporto c'è fra lo scherzo e il gioco? Adesso faccio una domanda a tutti voi. Sono rientrati tutti quanti. Io sentivo la mancanza di Mary D e mi sentivo un po': adesso cosa devo fare, cosa devo dire? Invece, cara Mary, noi ci stiamo chiedendo la differenza tra scherzo e gioco. Adesso la chiedo anche alla conduttrice del Librangolo, dica qualcosa. La differenza tra gioco e scherzo? Sì, tra scherzo e gioco. Beh, il gioco non è uno scherzo. Lo scherzo non è un gioco. Wow. George, posso parlare io della regia? Vadi pure. Allora, secondo me lo scherzo... Allora, il gioco ha le sue regole, e che sono più o meno conosciute da chi partecipa. Lo scherzo è invece più un'improvvisata, no? Dai, George, non fare quella faccia lì. È perplesso. Sono, sì, la cosa mi perplime. Si vede lontano un miglio. Allora, Bruxellando, voi lo sapete ormai, da quando esiste Librangolo, il mio ruolo progressivamente si erode, allora io mi ritaglio un nuovo ruolo, e il mio nuovo ruolo è quello di creare appositamente gli errori. Quindi ogni tanto parlerò con degli errori proprio fatti apposta, tipo, non so, vadi invece che vada, sbagliava i congiuntivi. A che pro, scusa? Allora, così per divertimento. Sul nostro blog faremo una specie di cero con l'immagine sacra di Joshua Ra, e ognuno potrà accendere una candela. Questo sarebbe carino. Una candela... una candela per Giovanni. Faremo una sottoscrizione. No, no, bene, cioè io stavo... Un viaggio a Ostend. Siete caduti nel tranello, perché vi ho parlato di divertimento. Ecco, e allora di nuovo. Prima vi ho messo... Lo scherzo è anche una figura, mi sembra, della musica classica. Ah, sì, lo scherzo è una figura musicale che però ha delle relazioni, appunto, con la parola, con l'uso attuale di scherzo. Io vorrei sapere adesso la differenza tra divertimento e scherzo. Pure là credo che ci siano sottili differenze. Sì, ci sono. Voglio dire, lo scherzo non è sempre divertente. Il divertimento poi non è sempre uno scherzo. No. Vabbè, allora, visto che insomma qua vedo che... Io darei la parola al Librangolo, perché sono sicura che ci saranno suggerimenti che ci aiuteranno nella riflessione. E allora lasciamo in sospeso lo scherzo, sì, il ci ritroviamo tra qualche minuto, il dai, gioco. A fine trasmissione. Cominciamo con il Librangolo. Grazie. Comunque io ho parlato anche prima dei miei preferiti in questo campo, quindi non mi volevo ripetere, e di conseguenza piuttosto ho cominciato a pensare di a chi devo ancora delle risate, diciamo. E mi ricordo infatti che Mark Twain, per esempio, mi ha regalato tante risate. Mi sono rimaste impresse specialmente i suoi ragionamenti sulla lingua tedesca, che abbiamo studiato in classe di tedesco. Dice per esempio: i miei studi filologici mi hanno confermato che una persona di talento dovrebbe essere capace di imparare l'inglese, eccetto ortografia e pronuncia, in 30 ore, francese in 30 giorni e tedesco in 30 anni. È palese di conseguenza che quest'ultima lingua dovrebbe essere accorciata e aggiustata. Se deve rimanere com'è, andrebbe messo gentilmente e con riverenza fra le lingue morte, siccome solo i morti hanno tempo di impararla. Un'altra osservazione acuta: qualunque un letterato tedesco sprofonda in una frase, potete essere sicuri di non vederlo più finché emerge dall'altro lato con il verbo della bocca. E sono abbastanza sicura che George potrebbe dire altrettanto sull'ungherese. Sì, però uno dice, lo vedete, immergersi nel tunnel e uscirà alla fine con il verbo in mano. Invece in ungherese si immerge e non esce proprio più. Non lo vedete più. E lui sosterrà dopo 30 anni di non essersi mai mosso da là. Ma guardate, quindi faccio meglio se passo da Gerald Durrell, un altro Durrell, scusa, perché è inglese. Però nella mia infanzia io pensavo che fosse francese, ovviamente. Che bello. Nel suo libro La mia famiglia ed altri animali è uno dei quei libri che fanno tanto divertire. Gerald Durrell era un famoso zoologo ed esploratore, di cui passione per la natura nacque già da bambino. Il libro racconta le esperienze della famiglia Corfù, dove traslocano perché il fratello Larry insiste, in base ad una bella cartolina mandatagli da un amico, e tutta la famiglia si sposta. Che bello. Bellissimo. Che bello. E infatti Larry non è altro che lo scrittore Lawrence Durrell, di cui il libro Il quartetto di Alessandria è diventato un classico moderno. Cioè, era pure l'uomo più, diciamo, serio della famiglia. devo tantissimi sorrisi anche alla Guida Galattica per Autostoppisti di Douglas Adams, che abbiamo menzionato varie volte, ma non siamo mai riusciti di parlarne proprio. No, non siamo mai riusciti a parlare. No. Infatti si tratta della storia del britannico Arthur Dent. Arthur Dent, che ha una speciale passione per il tè, ovunque si trovi nello spazio, e che è l'unico sopravvissuto della distruzione della Terra in seguito alla costruzione dell'autostrada spaziale. Non l'unico, però non dobbiamo mica dire tutto ai nostri ascoltatori, cioè devono leggerlo, perché questo proprio va letto. Cioè, immagini come Marvin, il robot manico depressivo, che è il preferito di George. Sì, grande Marvin. Oh, quanto è grande Marvin. I topi, come la protuberanza nella nostra dimensione di esseri iperintelligenti pangalattici, eccetera. E in fin dei conti, fondamentalmente, però, il libro non è altro che un altro modo abbastanza interessante per guardare il mondo. Sì. Infatti vorrei citarvi l'inizio del libro, perché secondo me vale la pena. Lontano nei dimenticati spazi non segnati nelle carte geografiche dell'estremo limite della spirale ovest della galassia, c'è un piccolo e insignificante sole giallo. Vi sentite già insignificanti? A orbitare intorno ad esso, alla distanza di 149 milioni di chilometri, c'è un piccolo, trascurabilissimo pianeta azzurro-verde, le cui forme di vita discendenti delle scimmie sono così incredibilmente primitive che credono ancora che gli orologi da polso digitali siano un'ottima invenzione. Questo pianeta ha, o meglio, aveva, un fondamentale problema. La maggior parte dei suoi abitanti era afflitta da una quasi costante infelicità. Per risolvere il problema di questa infelicità furono suggerite varie proposte, ma queste per lo più concernevano lo scambio continuo di pezzetti di carta verde, un fatto indubbiamente strano visto che essere infelici non erano i pezzetti di carta verde ma gli abitanti del pianeta. E così il problema restava inalterato, quasi tutti si sentivano tristi e infelici, perfino quelli che avevano gli orologi digitali. Erano sempre di più quelli che pensavano che fosse stato un grosso errore smettere di essere scimmie e abbandonare gli alberi. E c'erano alcuni che arrivavano a pensare che fosse stato un errore perfino emigrare nella foresta e che in realtà gli antenati sarebbero dovuti rimanere negli oceani. E poi, un certo giovedì, quasi 2000 anni dopo che un uomo era stato inchiodato a un palo per aver detto che sarebbe stato molto bello cambiare il modo di vivere e cominciare a volersi bene gli uni agli altri, una ragazza, seduta da sola a un piccolo caffè di Rixman's Worth, capì un tratto cos'era che per tutto quel tempo non era andata per il verso giusto e finalmente comprese in che modo il mondo sarebbe potuto diventare un luogo di felicità. Questa volta la soluzione era quella giusta, non poteva non funzionare e nessuno sarebbe stato inchiodato ad alcunché. Purtroppo però, prima che la ragazza riuscisse a raggiungere un telefono per comunicare a qualcuno la sua idea, successe una stupida quanto terribile catastrofe e di quell'idea non si seppe mai più nulla. Oh. Non parla di nulla. Così? Sì. Ma vi leggo ancora, se ancora abbiamo un attimo di tempo, cioè almeno un paio di citazioni, perché è troppo bello. Per esempio, c'è una teoria che afferma che se mai qualcuno scoprirà esattamente cos'è l'universo e per quale motivo c'è, l'universo sparirà immediatamente per essere rimpiazzato da qualcosa di ancora più bizzarro e inspiegabile. Secondo un'altra teoria, questo è già accaduto. Comunque. Ecco, oh. Questo è veramente secondo un'altra teoria, questo è già. Ma voi vi ricordate quel libro che era fatto, cioè di aforismi, anche le formiche il loro piccolo si incantano? Come no? Quello era galattico, c'erano delle battute, delle gag incredibili, degli scherzetti. E quella che vinse la racconto dopo che ha finito il librangolo. Bravo Giorgio. Magari allora un ultimo. Sul pianeta Terra l'uomo era convinto di essere più intelligente dei delfini perché l'uomo ha inventato così tante cose, la ruota, New York, la guerra, eccetera, mentre i delfini non hanno fatto altro che fare i cretini nell'acqua e divertirsi davanti. Viceversa, i delfini erano convinti di essere più intelligenti dell'uomo, esattamente per gli stessi motivi. È anche questo. E comunque nel libro, questo è molto bello, devo dire che consiglio a tutti la lettura di questo libro, Guida per autostoppisti della galassia, anche nella versione inglese che è pure divertente. E nel libro di Michele e Gino Michele, anche le formiche nel loro piccolo si incazzano, c'era quella che vinse, la battuta che vinse quell'anno ed era questa: la maestra in classe all'elementare chiede, Giorgio, ma tu credi in Dio? Lui la guarda e dice, beh, credere è una parola grossa, diciamo che lo stimo. Invece me ne ricordo una galattica che di Gene Gnocchi che diceva che alla Malpensa ci sono delle zanzare talmente grandi che chiedono l'autorizzazione per l'atterraggio. Anche questa non era male. Beh, a proposito di scherzi di divertimento, perché no? Divertimento, andare in un'altra direzione, cioè divertere. Cambiare strada. Cambiamo le strade, quelle già note. Già. Ma il gioco e lo scherzo lo rimando la prossima settimana. Perché? Perché non ho voglia di spiegare. Come non hai voglia di spiegare? Ci fai uno scherzo. Ma perché non hai voglia di giocare? No, ho voglia di perché giocare. Perché non vuoi giocare? Ho voglia di giocare, ma ti faccio uno scherzo all'interno del gioco. Puoi fare uno scherzo all'interno del gioco? Sì, quindi insomma. Ma così mi metti in difficoltà, non vuole. Ma che difficoltà? Non vuole. E poi visto che parliamo di scherzi di gioco, eccolo qua, ecco, 100 sessi di lo sapevo artisti. Io che stavi aspettando. 100 sessi di artisti, incredibile. Martedì 16 giugno. Oh, ma che cos'è questa cosa? Quindi ma oggi Giorgio era sulle suardi oggi. Ma leggi, c'entra anche l'Italia. Il disegnatore belga Jacques Charlier, che aveva visto le sue esposizioni 100 sessi di artista censurata dalla Biennale di Venezia di arte contemporanea, prende la sua vendetta, rivincita, a partire da questo martedì, che è oggi, al Beaux-Arts. Ed è gratuito. Ed è gratuito, andiamo quindi tutti. Signori, questa esposizione è a partire da oggi e fino al 13 settembre. È incredibile. Beh, visto che è stato così censurato dalla Biennale, credo che sia il caso di andarla a vedere. Però al Beaux-Arts. A quanto pare Jacques Charlier è un joie di 70 anni. Figurate, che fa parte di quella che è la partie off della Biennale d'arte contemporanea di Venezia. Pensate un po'. E lui è stato capace di farsi buttare fuori persino dalla partie off. E vai. Beh, ci vuole coraggio, è un personaggio effettivamente da conoscere. Tutto sommato, comunque, non è popolare solo a Venezia o solo a Bruxelles. Pensate che ha avuto già modo di esporre a Namur, ad Anversa e ovviamente Belgrado, poi in Norvegia, in Austria, in Lussemburgo e in Francia. Quindi, insomma, ci andremo, Giorgio? Poi faremo una descrizione dettagliata di queste anche questa panoramica. Anche perché mi fa venire in mente che il 26-27 giugno all'Espace Senghor, bravo, si tiene una rappresentazione teatrale, diciamo una serata di cabaret. Di cabaret, sì. Che si chiama Il Carosello d'Amore. E insomma, ecco, io non voglio svelare troppo. Beh, diciamo che invitiamo i nostri ascoltatori a prenotarsi e andare numerosi a vedere cosa succede. Se già hai riferimenti, perché quindi è Pass and Go 26-27 giugno alle ore 8. Alle ore 20. Beh, invitiamo i nostri, soprattutto i nostri navigatori di internet e chi consulta il nostro blog potrà trovare tutti i riferimenti. Assolutamente, sul nostro blog sarà possibile quindi ritrovare le coordinate giuste, così non ci si smarrisce. Borsellando.blogspot.com. Meno male, Giorgio, perché io non lo ricordo mai sto benedetto indirizzo. E a proposito di eventi particolari di questo fine settimana, invece c'è anche la festa della musica, che quest'anno compie il suo 25esimo anno di età, organizzato annualmente dalla comunità lustri. Francese, esatto, 5 lustri, si svolgerà tra il 18 ed il 21 giugno. Non c'è un luogo in particolare dove la manifestazione avrà luogo, perché è una manifestazione che è organizzata un po' dappertutto a Bruxelles e in Vallonia. A Bruxelles ovviamente ci sono tanti luoghi che accoglieranno Yuri Buenaventura, Jacques Duval, l'Orchestra Nazionale del Belgio, Luce de Raquette, Marie-Sophie Anling, Darko, Fences, Les Déménagères. Ovviamente dove avrà luogo a Place des Palais. Quindi insomma, per quanti fossero curiosi, ci sarà la possibilità di poter ascoltare più di 120 tipi di musica diversi provenienti da 120 paesi e 350 città differenti. Quindi invitiamo tutti a festeggiare in maniera musicale l'estate 2009, ragazzi, perché speriamo che arrivi l'estate, perché la stiamo aspettando tutti qui, soprattutto a Bruxelles, dove questa pioggia pare proprio chi non ci voglia abbandonare. Come dobbiamo fare? Sì, è un disastro, mi stanno crescendo tutti i funghi addirittura? Sì, mio Dio, anche sul naso. Giorgio, era una scherza. Faremo un risotto, faremo un bel risottone, un risotto misto? Va bene, cari amiche e cari amici, noi vi ringraziamo dell'attenzione e ringraziamo nuovamente tutti coloro i quali continuano a visitare numerosi il nostro blog. Lo so, in tanti ci avete scritto, sarà presto tutto quanto disponibile ed online. Un grazie particolare a Daniele Meregia, ovviamente grazie. Alla nostra Fiordaliso, che veramente riesce a suggerirci chicche di lettura straordinarie, suggerimenti di lettura davvero unici e rari. Ovviamente a Giorgio, eccomi, il nostro Giorgio, che non ci ha voluto spiegare nel dettaglio la differenza che c'è tra scherzo e divertimento, però no, lo faremo la settimana prossima. Divertimento l'ho detto, scherzo sì, e gioco. La scherzo e gioco, va bene, comunque è sempre tutto lo scherzo. Io al cero lo accendo su internet. Accendilo. Così vediamo quanti ce l'accendiamo, magari. Accendete un cero per il gioco. E un grande saluto anche a Paolo e Stefano. Paolo, grazie. E Stefano, martedì. Ciao. Avete ascoltato. Ciao,